2024 di Enrico Pagliarini. Sono le 15:32 minuti, benvenuti o bentornati a 2024, questa è la puntata del 5 novembre, questo è il programma dedicato alla tecnologia di Radio 24, come la tecnologia ci cambia la vita. Anche questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast al termine della nostra puntata. Sapete che a 2024 parliamo, appena c'è l'occasione, di sistemi e tecnologie per diffondere i servizi internet. Come sapete, l'abbiamo detto più volte, la prima scelta è oggi e dovrà essere sempre più in futuro il cavo. Oggi la DSL in alcune aree metropolitane è più fortunata, la fibra ottica, domani sempre più fibra ottica, solo fibra ottica. Per questo è necessario un progetto vero e proprio per una nuova rete in fibra, non annunci, siamo arrivati all'ennesimo anche in questi ultimi giorni. A proposito di nuova rete, vi segnalo una proposta fatta da AssoProvider questa settimana, che è contenuta in una lettera indirizzata al ministro Romani, in cui si legge che per costruire la rete nazionale in fibra si potrebbero coinvolgere i cittadini nell'acquisizione, ad esempio, dell'ultimo miglio che arriva proprio in casa. Il valore stimato per ogni abitazione è attorno ai 500 euro per unità. In quel caso si diventa automaticamente azionisti di questa nuova società. Molto interessante. Io sarei fortemente interessato a pagare 500 euro per avere un cavo in fibra ottica che arriva nella mia casa. Ultimamente ci sono varie proposte di questo genere. Visto che lo Stato non è capace di costruire questa rete, si suggerisce, si propone, ad esempio in questo, nel caso della rete in fibra ottica, di pagare un pezzo della rete. C'è stata una proposta un paio di giorni fa, analoga, però l'obiettivo finale è il debito pubblico. Come sapete, parlando di internet e di diffusione di internet, abbiamo due esigenze. La prima è costruire una nuova rete per il futuro della rete internet e contemporaneamente ridurre il cosiddetto digital divide, zone non raggiunte da internet o dove internet c'è ma a velocità ridotta, diciamo così. Questo è un problema, tra l'altro, che avremo per molti anni, perché la nuova rete non raggiungerà tutti i cittadini subito. Per tentare di ridurre il digital divide ci sono naturalmente molte tecnologie, in primis quelle senza fili, wireless. In Piemonte sono stati presentati i risultati di una sperimentazione fatta in una valle del Piemonte. Allora saluto Roberto Bori, che è il direttore della ricerca del CSP, che è un organismo di ricerca partecipato tra gli altri dalla Regione e dal Politecnico di Torino. Bori, benvenuto, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, questa sperimentazione è stata fatta, diciamo subito dove, per farci capire, insomma, che è una zona piuttosto difficile da raggiungere, soprattutto da fibra DSL internet. Sì, è stata scelta appositamente una valle alpina qua a ovest di Torino, una sessantina di chilometri, la valle di Viu, una delle tre valli delle Valli di Lanzo. È stata scelta appunto sulla base di due criteri: uno, quello di essere un'area soggetta a digital divide, la seconda anche per la sua conformazione orografica, che permetteva in questo caso di avere una maggiore protezione attorno ai segnali trasmessi in questa circostanza. Allora, stiamo parlando di internet senza fili, con una tecnologia che gli esperti tecnici definiscono white spaces, che tradotto in italiano è spazi bianchi, spazi vuoti, potremmo dire, non utilizzati. Ci spiega di che cosa si tratta, cioè dove sta l'idea? Sì, diciamo che la definizione più canonica è quella che vede attribuire il significato di white spaces, proprio quella di avere un canale, meglio sarebbe dire una frequenza, che prima era utilizzata da un sistema televisivo, quindi si assisteva alla trasmissione di un programma, e che se noi invece accendessimo la TV il giorno dopo, come era prima nel sistema analogico, vedremmo quella famosa neve, quindi l'effetto bianco del canale. In modo più estensivo, noi abbiamo attribuito questa definizione anche al fatto che comunque esistono molti altri canali, molte altre frequenze che sono in ogni caso ancora assegnate, concessionate, ma che in molte zone del paese non sono utilizzate, proprio perché o non vi sono interessi di tipo economico, nel senso non vi sono poi ritorni utili per giustificare gli investimenti, oppure banalmente in certe zone il segnale non arriva e quindi può essere utilizzata quella frequenza per altri scopi. Quindi, ad esempio, nel caso specifico c'è una TV che trasmette in Piemonte, ma che è poco interessata a spendere soldi per trasmettere un buon segnale in Val di Viù, nel caso specifico. E allora si dice, lì, visto che quella frequenza non è utilizzata per diffondere la TV, utilizziamo quelle stesse frequenze per diffondere internet, dico bene? Esattamente, in questo caso è stato proprio scelto, fatte le opportune verifiche, sia sull'occupazione dei canali in valle, sia incrociando i dati con la disponibilità degli operatori, perché in questo momento ancora tutte le frequenze erano assegnate, abbiamo verificato che una di queste emittenti, che opera comunque su un territorio nazionale, non avrebbe appunto mai avuto interesse ad accendere effettivamente i suoi trasmettitori in quella valle, e quindi si è disposta essere una parte attiva dell'esperimento, e dobbiamo ringraziare il Ministero che ovviamente ha dovuto permettere, dando la concessione a questa sperimentazione in atto. Senta, a livello pratico, questo collegamento ad internet, che tipo di performance offre? Ecco, su questo bisogna essere abbastanza sinceri. Flessibili e sinceri, nel senso che per la larga banda ormai ci sono definizioni di ogni tipo, e viene normalmente attribuito il concetto di larga banda quando all'utente finale si danno circa 2 megabit, almeno questa nelle definizioni più ordinarie. Noi il sistema che abbiamo messo in campo è un sistema in grado di erogare 6 megabit, però su un ampio raggio, nel senso che l'efficienza del sistema non sono tanto misurate sulle prestazioni quanto sulla flessibilità, i bassi costi e la possibilità comunque di usare su lunghe distanze questo collegamento. Quindi diciamo che nella sperimentazione che voi avete fatto, al cittadino, alla casa che era all'interno della sperimentazione, che tipo di servizio arrivava? Sono tutti servizi internet tipici, compreso anche lo streaming, anche di buona qualità. Ovviamente c'è da considerare, ma come in tutti i servizi wireless, che la banda disponibile deve essere condivisa dall'utenza. Ora la cosa che abbiamo messo in campo noi è quella di poter dare questo servizio in aree estremamente poco popolate e che quindi hanno anche una densità inferiore, per cui 6 megabit diventano una banda sufficientemente ampia quando l'utenza è estremamente ridotta. Sì, esatto, non si possono coprire grandi paesi, però visto che l'Italia è fatta di valli e di case distribuite, questa sicuramente potrebbe essere una tecnologia interessante da utilizzare, forse interessante anche per si dice broadcaster, ma sono gli operatori televisivi che trasmettono segnali, appunto non li sfruttano ovunque. Ma oggi questa tecnologia può essere utilizzata o non ancora, visto che le frequenze sono assegnate alle TV? Non ancora, e poi c'è anche un'altra idiosincrasia di cui tenere conto, nel senso che i cosiddetti white spaces in Italia al momento non esisterebbero, in quanto queste frequenze rese libere dalla transizione analogico al digitale, da un lato sono state messe all'asta e quindi riassegnate, quindi in qualche modo di nuovo privatizzate per il loro uso e aggiudicate dagli operatori di telefonia mobile, e dall'altro con il beauty contest sappiamo riassegnati per gli stessi scopi agli operatori televisivi. Quindi è una tecnologia che è adatta e che è di futuro, in quanto si basa come al solito sull'evoluzione del sistema di accesso radio che sta vedendo, quindi nello sviluppo di chip di questi famosi WSD, cioè i White Space Devices, che saranno presto disponibili sul mercato. Quindi oggi ancora non si può fare, però quando, secondo lei, in base anche alla sperimentazione che avete fatto, quando potranno esserci servizi commerciali di questo tipo? Appunto, conterà ovviamente molto la regolamentazione, anche se, come abbiamo visto in passato, il caso più tipico è quello delle wireless LAN, e quando ci sono i dispositivi disponibili poi sarà veramente arduo vincolare la tecnologia, e quindi il sistema che la regolamenta dovrà cercare di adattarsi e di fare dei salti in avanti in modo estremamente più rapido. C'è da prevedere che in meno di 5 anni qualche dispositivo potrà incominciare a essere reso disponibile. La cosa che noi riteniamo più interessante dovrebbe essere appunto quella di poter incominciare a sperimentare in zone reali del territorio per vedere se c'è una sorta di roadmap che rende questo sistema più compatibile anche con la regolamentazione e con le esigenze del servizio. Sì. Senta, un'ultima domanda. Nel mondo cosa sta succedendo? Cioè questa... Pronto? Sì, noi la sentiamo. Speriamo che lei senta noi. Sì, adesso sì. Se questa tecnologia nel mondo viene già utilizzata o ancora non c'è nessuno che sta facendo sperimentazioni per portare internet sfruttando questa idea? Vi è solo una sperimentazione, la nostra conoscenza molto, molto attiva, molto evoluta, che ha luogo in Gran Bretagna e dove vi è la partecipazione anche di costruttori e di Microsoft e della BBC. Altre sperimentazioni non ne siamo a conoscenza se non appunto nel laboratorio o in field test di tipo universitario. Molto bene. Borri, io la ringrazio per essere stato con noi, grazie anche per questa sperimentazione, perché laddove c'è una luce che si accende per diffondere internet, quella luce secondo noi è molto importante. Buon lavoro, a presto. Grazie ancora, arrivederci. Bene, sono le 15:42 minuti, saluto e vi presento un ospite che ci ha raggiunto nel nostro studio e con il quale parleremo dell'argomento principale di cui ci occupiamo oggi, ovvero di informazioni sul traffico. Roberto Balduini è il responsabile dei servizi traffico di Octo Telematics. Benvenuto, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori. Dunque Balduini, io ho detto all'inizio della trasmissione che oggi ci sono un sacco di sensori che ci forniscono informazioni sul traffico. Non so quanto questa cosa sia nota, anzi io penso proprio che non sia molto nota. Per sensori che cosa intendiamo? Intendiamo, nel caso di Octo Telematics sono dei sistemi montati a bordo di automobili per finalità di tipo assicurativo, ma poi abbiamo tutti i sensori che sono i telefoni, gli smartphone dotati di GPS che possono dare l'informazione di localizzazione del veicolo o della persona. Sì, esatto, ormai quando parliamo di sensori possiamo fare riferimento tranquillamente al nostro cellulare, esatto, che ha un sacco di funzionalità e che può fornire informazioni. Tra l'altro lo dico a molti ascoltatori, gli operatori di telefonia mobile, naturalmente in maniera anonima, forniscono a tutta una serie di operatori che si occupano di traffico informazioni, poi magari anche di questo parliamo, informazioni relative al traffico, cioè facendo una serie di calcoli piuttosto complessi da raccontare alla radio, che nemmeno io so tra l'altro, capiscono dove si trovano i telefonini che comunque trasmettono alle celle, le celle sappiamo dove si trovano, fanno un po' di calcoli e dicono lì ci sono un po' di cellulari fermi in autostrada, allora si capisce che lì c'è una coda in autostrada. Dunque vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci in diretta, 824 0024, oppure se volete inviarci un sms 349 238 6666, vi suggerisco altre due modalità, ovvero Facebook, la nostra pagina, cercatela scrivendo 2024, potete mettere un messaggio anche lì, oppure scriveteci una email, la leggeremo in diretta, 2024@radio24.it. Parleremo di questo, di informazioni sul traffico, di come la tecnologia sta letteralmente cambiando le cose nel mondo della navigazione, un mondo che è stato fortemente condizionato e sicuramente verrà condizionato molto dalla presenza nelle mani di molti cittadini degli smartphone e di tutta una serie di applicazioni che ci sono sugli smartphone, ma insomma il panorama è piuttosto variegato e complesso. Allora adesso c'è, a proposito di traffico, la viabilità e ci risentiamo tra un minuto. 2024. Sono le 15:46 minuti, questo è 2024, la puntata del 5 di novembre che troverete disponibile anche attraverso il servizio podcast. Parleremo di traffico, di informazioni sul traffico tra poco, adesso alcune notizie della settimana. Digital News. Primi problemi per l'iPhone 4S. La Apple ha ammesso che alcuni dispositivi che montano iOS 5, quindi il nuovo sistema operativo, hanno una durata anomala della batteria. Per questo verrà rilasciato un aggiornamento software per correggere il problema, ma ci vorranno alcune settimane. Altro problema riguarda il Siri, l'assistente vocale che fa spesso cilecca, possiamo dire, ovvero non capisce che cosa viene detto. Anche noi abbiamo fatto alcune prove con un nuovo iPhone 4S e visto che il sistema sfrutta i data center della Apple per funzionare, quindi deve essere connesso alla rete internet, questa settimana ci sono stati almeno due giorni con seri problemi di connettività negli Stati Uniti. Digital News. Debutto in borsa con rialzi fino al 50% per Groupon, la società internet che offre buoni sconto per numerose attività e prodotti. Il titolo è salito a fine giornata ieri del 30% con una capitalizzazione di 16 miliardi di dollari e con una raccolta di 700 milioni di dollari che ne fanno, pensate, il collocamento più importante del settore internet dallo sbarco in borsa di Google nel 2004, in quel caso di dollari. E vennero raccolti 1,7 miliardi. Oltre ai rischi di una bolla sulle aziende high-tech, ci sono parecchi dubbi sulla sostenibilità del business di Groupon che in molti stanno copiando in questi giorni. Digital News. Questi giorni, queste settimane, però, è di pochi giorni fa che Google ha annunciato l'entrata in questo settore. Nella battaglia dei sistemi di messaggistica istantanea su smartphone, WhatsApp, che forse molti di voi conosceranno, ha messo a segno un bel risultato. Lunedì la società ha annunciato di aver raggiunto il miliardo di messaggi in una sola giornata. La startup californiana con ex di Yahoo ha raccolto 8 milioni di dollari di finanziamento. Digital News. Visto quello che sta succedendo in Liguria, il Ministero dello Sviluppo Economico ha deciso di sospendere e rinviare a data da destinarsi lo switch off, quindi lo spegnimento delle frequenze analogiche per il passaggio alla TV digitale terrestre. Le trasmissioni televisive nelle zone della Spezia e provincia e della Lunigiana resteranno dunque in tecnica analogica. Abbiamo un'ultima notizia: mentre a Londra c'è stato in settimana un importante vertice sul cybercrime, in Italia il senatore Felice Casson ha depositato una mozione con la quale chiede al governo di stanziare adeguate risorse per l'aggiornamento delle infrastrutture in dotazione agli operatori della sicurezza su internet, cioè sostanzialmente la polizia, rese obsolete queste infrastrutture dal passaggio da IPv4 a IPv6. Sigla un po' complicata, ma si tratta di un'evoluzione tecnologica degli indirizzi internet che rendono rintracciabile più o meno chiunque si connette ad internet. Di fronte a questo grande aggiornamento della rete che avverrà nei prossimi anni, se la polizia non avrà adeguati strumenti, dice Casson, sarà difficile, se non impossibile addirittura, la lotta al cybercrime in genere, ma soprattutto sempre più allo spionaggio industriale che sta crescendo molto in questi anni. Beh, adesso parliamo di informazioni sul traffico, partendo però dai satelliti. Ieri un lanciatore russo Proton ha messo in orbita 3 satelliti della costellazione GLONASS, che è il GPS russo. 2 settimane fa una Soyuz ha messo in orbita i primi 2 satelliti del futuro Galileo europeo, che entrerà in funzione dal 2014, e lo stesso GPS americano viene costantemente aggiornato, il che vuol dire che vengono sparati satelliti per sostituire i vecchi che ruotano attorno alla Terra. La nostra vita è sempre più condizionata dalle informazioni che possiamo ricavare grazie a questi satelliti, che indicano la posizione in cui ci troviamo. Ma se accoppiamo queste informazioni ad altre che stanno crescendo e stanno aumentando, possiamo utilizzare servizi molto innovativi. Allora, vi ho presentato Roberto Balduini, che è responsabile del servizio traffico, dei servizi di traffico di Octo Telematics. Dicevamo, e questo è interessante, che voi avete iniziato la vostra attività, questa è un'azienda italiana, e tra l'altro poi parleremo anche del primato italiano, perché anche questa è un'altra cosa interessante, non per il traffico, cioè è un risultato che avete ottenuto dopo, forse. Esattamente, siamo partiti per fornire servizi assicurativi, e attraverso questo servizio, che è basato poi sulla geolocalizzazione del veicolo, rendendo ovviamente del tutto anonimi i dati, siamo passati a poter dare delle informazioni, quelle informazioni sul traffico che in molti usano guardandole su internet, o anche Roma, sul Milano, o anche sul navigatore. Ecco, ci arriviamo, ma che cos'è questo sensore? È una scatola, giusto? È una scatola, una clear box, viene nostra denominazione clear box perché consente di stabilire un rapporto trasparente tra l'automobilista e l'assicurazione. E con questa scatola è dotata di alcune apparecchiature banali adesso nel mondo moderno, cioè un GPS, un GSM per la trasmissione dei dati, un accelerometro per verificare lo stato di accelerazione e decelerazione del veicolo e quindi per poter stabilire se vi è stato un impatto e di che entità questo impatto è stato. Le assicurazioni che cosa se ne fanno di questi dati? Beh, intanto è uno strumento molto importante per ridurre le frodi. In Italia abbiamo rimborsi per il colpo di frusta che è 4 volte superiore a quello che avviene in altri paesi. Evidentemente ci sono dei problemi, ci sono anche altri problemi, in particolare in alcune zone, denunce di incidenti, di crash che in realtà hanno poi, come dire, un evento, un dato economico che non corrisponde all'evento. Quindi diciamo che l'assicurazione in quel caso dice: no, tu non hai tamponato nessuno, perché noi sappiamo tutto. Esatto. Ed è questo dato può essere opposto anche in sede di giudizio, per cui è opponibile in sede di giudizio, perché ormai viene riconosciuto come un dato affidabile. Ma poi ci possono essere anche altre cose molto utili, perché si può pagare l'assicurazione in funzione di quanto uso il veicolo, quindi molte assicurazioni online chiedono: ma quanti chilometri fa in un anno? Uno dichiara una fascia di chilometri, ma com'è possibile verificarla questa fascia? Assolutamente no. Invece con un sistema a bordo di questo genere possiamo verificare i percorsi, non solo, ma dove questi vengono effettuati, quindi a livello urbano, extraurbano, autostradale, e l'incidentalità cambia, quindi il rischio che si assume un'assicurazione rispetto ad un determinato uso del veicolo in questo modo viene reso trasparente e si possono caricare i costi dell'assicurazione effettivamente su chi fa un uso particolare del veicolo. Possiamo, poi c'è ad esempio l'antifurto. Esatto, poi è anche un antifurto, nel senso che è possibile localizzare il veicolo una volta che viene dichiarato da parte dell'automobilista la scomparsa del veicolo, e quindi se non è una banda di ladri attrezzata con strumentazioni, con strumentazioni particolari, c'è una buona recuperabilità del mezzo. Senta, rimango su questo capitolo perché è molto interessante. Non so quanti sanno, quando fanno un contratto assicurativo gli vengono dette queste cose, poi in realtà che c'è questa scatoletta nascosta nella macchina. Lo sanno perché devono andare a montarla. Ah, quindi lo sanno. Sanno. In prospettiva tutte le assicurazioni avranno una cosa del genere? Beh, adesso la maggior parte delle assicurazioni hanno questo sistema. Tra i vari pacchetti di servizi offerti c'è questo tipo di assicurazione che consente di risparmiare anche sulla polizza o di avere dei servizi in più. Quindi si ha il servizio per il furto, oppure si ha il servizio per in caso di incidente. Quindi diverse assicurazioni forniscono un servizio per cui se c'è un crash viene rilevato dalla centrale e a seconda dell'intensità di questo crash si capisce se può essere stato un incidente grave oppure no, viene l'assicurato ha fornito precedentemente il suo numero di cellulare, viene richiamato e quindi sì, c'è una specie di e-call. Noi in Italia di fatto l'abbiamo già l'e-call, non è proprio il meccanismo. Però lei dà per scontato che tutti sappiano che cos'è la e-call, sì. Poi ne parliamo perché questa è una novità, tra l'altro è recente perché il Parlamento europeo mi sembra che abbia recentemente approvato una serie di passi che da qui al 2015 renderanno obbligatoria questa cosa, di cui parleremo. Mi dica in pochi secondi quanti ne avete di questi che chiamiamo sensori, queste scatole, perché poi da qui parte poi tutto l'interesse per il traffico. Beh, ne abbiamo oltre 1.200.000, quasi 1.300.000 in tutto il mondo, però la maggiore concentrazione, visto che siamo partiti in Italia, è in Italia dove ne abbiamo oltre quasi 900.000 attivi. Poi siamo presenti in Gran Bretagna, in Francia, in Austria, Spagna, Sudafrica, Stati Uniti, Brasile, Russia. Bene, finiamo la lista, perché sì. Non finiamo più. Adesso ci fermiamo, ci sono le notizie del traffico, no, non del traffico, del giornale radio. Bene. Per parlare di questo, perché parleremo, poi entriamo nel dettaglio tra poco, ci risentiamo tra qualche minuto. 2024. Riprendiamo questa puntata alle 16:06. Io sono Enrico Pagliarini. Oggi Valeria Bernardi si occupa della parte tecnica. Ringrazio anche Alessandro Balia e Anita Panizza in redazione. Alessandro Balia oggi è proprio presente fisicamente, e naturalmente anche tutte le persone che ci aiutano alle centraline. Il nostro numero verde è 800 24 00 24. Stiamo parlando di informazioni sempre più preziose, che sono le informazioni sul traffico, che stanno un po' cambiando, soprattutto perché abbiamo in mano smartphone che possono ricevere e comunicare dati. Però ripartiamo dalle scatole che ormai sono diffuse in circa 900.000 auto in Italia. Ne stiamo parlando con Roberto Balduini, che si occupa di traffico all'interno di Octo Telematics. Certo. E tutti i giorni parla con tutti i protagonisti di questa filiera piuttosto complessa, perché siete in molti che vi occupate di queste cose a vario titolo. Chi raccoglie le informazioni, chi le mette insieme, chi le comunica alla gente, chi le mette assieme e le mette a disposizione di chi ha un navigatore satellitare, insomma, un po' complicato questo mondo. Insomma, ci sono anche dei grandi operatori, Google sta mettendo da tempo ormai le informazioni sul traffico, TomTom, i produttori di navigatori raccolgono e distribuiscono informazioni sul traffico, poi ci sono molti piccoli, diciamo così, operatori che su web o attraverso flotte che hanno a bordo sistemi GPS fanno questo tipo di attività. E poi ci sono quelli che stanno crescendo e che diventeranno poi il futuro, che sono le community, quindi tipo Waze. Ecco, qua ti ha citato una cosa che volevo dire, perché a me piace molto, anche se questo software gratuito per smartphone ancora un po' di problemi ce li ha, però sicuramente è un trend futuro. Alcuni degli operatori che lei ha citato comprano informazioni da voi. Voi avete queste 900.000 automobili che hanno a bordo un sensore, ma sono poche o molte 900.000 per avere un dato sul traffico? 900.000 sono un numero consistente, sono circa tra il 2,5% e il 3% del parco auto nazionale, quindi sono numeri di rilievo. Anche perché queste auto sono auto che tendenzialmente sono in movimento sulle strade? Ma come le altre, non hanno le auto. Purtroppo, per fortuna, per il 96% del loro tempo stanno ferme, circa 95-90% della loro vita. È incredibile. Quindi noi abbiamo un mezzo che usiamo solo per il 5% della sua vita utile. Allora, queste 900.000 auto che hanno questi sensori, ci spiega come fanno a trasmettere informazioni e che tipo di informazioni danno e come vengono messe assieme per poi arrivare a sapere banalmente, guardando su un sito internet oppure utilizzando un navigatore satellitare, se su un certo tratto di strada c'è traffico oppure no. Questi, ricordiamo, che sono dati in tempo reale. Sì, le auto trasmettono la loro posizione secondo delle frequenze che possono essere o temporali o in base alla distanza percorsa. Questi dati vengono raccolti dai sistemi di centrale e tutta l'intelligenza del sistema sta in centrale. Quindi sì, in centrale, attraverso degli algoritmi che ormai sono abbastanza, come dire, una tecnologia abbastanza consolidata, vengono elaborati e trasformati in velocità o tempi di percorrenza su archi stradali, quindi su percorsi, e possiamo attraverso questo poi dare quella colorazione che vediamo su internet, in cui si danno le velocità medie di percorrenza su una tratta. Senta, ci dice, allora, intanto queste informazioni vengono trasmesse perché c'è un modulo GSM, cioè una piccola SIM nascosta in queste scatole. Un GPS e un GSM. Sì. Che quindi trasmette, sfruttano la rete di telefonia mobile. Esattamente. In questo caso, lo diciamo agli ascoltatori, quasi tutti i sistemi, o meglio, alcuni non prevedono il pagamento da parte dell'utente, perché ad esempio nel caso vostro paga l'assicurazione. Esatto, è compreso nel canone di noleggio. Però ad esempio altri sistemi, un sistema noto è il TomTom Live, che sfrutta le informazioni che arrivano dagli stessi navigatori connessi. In quel caso c'è un canone da pagare che è su base mensile, annuale, eccetera, eccetera. Dicevo che ci sono anche alcuni operatori che prendono informazioni dagli operatori di telefonia mobile, perché gli operatori di telefonia mobile hanno il controllo della rete e in maniera anonima possono capire se un cellulare sta transitando su una strada e a che velocità, se ad esempio è in coda, se c'è una... È un problema di precisione questo, perché individuare la posizione di un veicolo attraverso le celle, cioè un meccanismo di triangolazione di celle, può portare ad un errore anche di 500 metri, 4-500 metri, e questo errore è nel raggio di 4-500 metri ci possono essere molte strade che vengono percorse. Se siamo in piena campagna probabilmente no, ma se siamo in un ambito urbano o periurbano ci possono essere dei problemi. Ci sono dei problemi. Poi man mano che si procede verso l'utilizzo di tecnologie che sono ormai consolidate come il GPS, si ha una precisione maggiore, quindi il sistema GPS ha una precisione dell'ordine di 10-20 metri, quindi è possibile collocare... Sì, o anche meno, con una serie di trucchi meno, per correggere l'errore. Galileo sarà ancora più preciso, sì, sarà anche certificato. E man mano che ci saranno sempre più satelliti e che potranno anche essere utilizzati congiuntamente, noi adesso per esempio abbiamo un sistema che può utilizzare sia il sistema del russo che il nostro, quando GLONASS. GLONASS, quando non si vedono, quando i nostri satelliti non sono quelli del GPS non sono in vista, si utilizzano altri satelliti. E... Senta, le informazioni che voi restituite ad alcuni operatori, il più importante è InfoBlu del gruppo, sì, Autostrade, giusto, Atlantia. Più importante nel senso che noi abbiamo un accordo stretto con InfoBlu, siamo dei partner, abbiamo fornito in esclusiva ad InfoBlu i nostri dati e le informazioni sul traffico in tempo reale, e InfoBlu le integra con tutti i dati che rileva sulle autostrade, quindi sia con gli eventi sia con altre informazioni. Che tipo di altri sensori ci sono? Perché so ad esempio che non sono tantissimi, ma nell'asfalto delle autostrade ci sono annegate delle spire metalliche che controllano il traffico, giusto? Da noi non sono molte queste, sono poche e presentano dei problemi anche di manutenzione, perché devono essere manutenuti questi sistemi a terra. Negli Stati Uniti, per esempio, le freeway hanno una spira ogni 300-500 metri, quindi il traffico è monitorato tramite queste freeway. Sono spesso gli enti pubblici o i gestori delle strade, quindi le municipalità o i gestori delle strade che hanno infrastrutture e danno queste informazioni a degli operatori privati che le integrano con propri sistemi e anche con dati acquisiti dalle flotte, quindi dai gestori, sì, di flotte, e forniscono questo servizio. Senta, queste informazioni dove sono disponibili? Le vostre, poi possiamo parlare anche di altri sistemi, altri servizi. Le nostre sono disponibili sul nostro sito, quindi con un accesso libero. Che è octotelematics.it. Esatto. Sì. E sono disponibili e fruibili soprattutto tramite InfoBlu, che poi ha fatto una serie di ulteriori servizi. Quindi InfoBlu ha realizzato delle app che sono su smartphone, quindi su sistema Android e su Apple, e quindi attraverso questa modalità è possibile avere l'informazione sul cellulare. Ce n'è una parte gratuita che è, diciamo così... Cosa si capisce da queste applicazioni? Si sa? Che tipo di informazione viene restituita? Si ha la velocità sulle tratte stradali della rete primaria a livello nazionale, che stiamo sempre di più allargando. Quindi noi adesso stiamo completando le città, Roma, Torino sono pronte, stiamo facendo Milano, in maniera molto più approfondita e dettagliata, mentre nelle informazioni che troviamo, diciamo così, gratuite su questo, ci sono gli anelli, c'è la viabilità, le circonvallazioni, i tratti, diciamo, autostradali. Sì. Bene, adesso ci fermiamo per un minuto, informazioni a proposito sul traffico. 2024. Riprendiamo questa trasmissione che abbiamo dedicato in gran parte alle informazioni sul traffico e a tutti i nuovi scenari che vedremo nei prossimi, direi già mesi, anni. Balduini, lei ha fatto riferimento poco fa a Waze, che è un software di navigazione gratuito per smartphone, e Waze sicuramente sta cambiando, ricordiamo che è una startup israeliana che ha ricevuto anche parecchi milioni di dollari di finanziamento, che sostanzialmente realizza un servizio di navigazione tramite le informazioni che arrivano dagli utenti stessi. Ci sono altre società che stanno facendo questo, ma insomma la particolarità di Waze è che soprattutto in alcuni stati è un servizio molto affidabile ed è un servizio gratuito. Qua infatti uno dice, ma allora tutti gli altri che fine faranno? Lo spiego molto brevemente. Immaginiamo che ci sia una città con tanti utenti di questo servizio, ognuno restituisce le informazioni sulla posizione, sulla velocità che sta con cui sta attraversando ad esempio una via in una città, il sistema centrale mette assieme queste informazioni e quindi ci può dare anche informazioni sul traffico. Devo dire che in Italia a volte fa un po' cilecca Waze, però io l'ho provato negli Stati Uniti, effettivamente un servizio molto interessante. Allora ci faccia capire che cosa sta succedendo. Tutto questo mondo che si basa su cartografie, su servizi di navigazione e negli ultimi anni sempre più servizi sul traffico, sta andando verso un modello gratuito anche, come abbiamo visto in altri ambiti, internet, e che tipo di modello di business ci sarà per il futuro? Voi, ma tanti altri operatori, come sopravviveranno? Sicuramente le informazioni sul traffico potrebbero essere un asset, come dire, importante. Beh, di gratuito non c'è proprio mai nulla, ecco, sì, quindi sì. Gratuito è una parola un po' sembra che ci siano delle cose gratuite, ma in realtà si pagano in un altro modo. Beh, certamente ci sarà un'espansione di queste forme di raccolta e diffusione dei dati, e quindi da questo punto di vista sempre di più gli smartphone saranno il fulcro di questo sistema. Tuttavia anche altre forme di informazioni sul traffico possono certamente mantenere una loro validità. Poi ci sono delle evoluzioni che si stanno mettendo in atto. Noi stiamo predisponendo non solo le informazioni in tempo reale, ma anche le previsioni di traffico a breve termine. Ah, questo è interessante. Quindi, perché attualmente appunto ci sono vari sistemi che ci offrono sul navigatore satellitare, sullo smartphone, abbiamo detto il traffico. Fare le previsioni come si fa? Perché mica è una cosa dunque, facile. Dobbiamo capire che cosa significa quando un navigatore o un sistema ci dà il traffico. Allora, significa che il navigatore combina i dati delle distanze con i dati storici di traffico, cioè vengono elaborati e raccolti i dati di percorrenze di velocità medie su determinati tratti, tempi di percorrenza storici mediamente in determinate ore, giorni della settimana, e questi vengono utilizzati nell'ambito di algoritmi che ricalcolano il routing e i tempi. Quando i primi navigatori tenevano conto dei tempi di percorrenza per scegliere la strada più veloce, questo veniva fatto normalmente in base alla velocità massima di quella strada prevista, sì, prevista da progetto, generalmente dal codice della strada, con qualche correzione, diciamo così, rispetto alle velocità consentite su quei tratti. E questo era il dato. Il secondo passaggio è stato quello di raccogliere tutti i dati per poter trasformare queste velocità di progetto, diciamo così, in velocità effettive in base a quelle che erano le percorrenze che storicamente si avevano su quelle strade. Il terzo passaggio è passare dal dato storico al real time, cioè raccogliere quei dati che in quel momento si hanno su quei determinati tratti e rifare il calcolo del percorso tenendo conto della situazione reale nel momento in cui noi lo stiamo attraversando. Il passaggio successivo è quello delle previsioni, quindi anche se le previsioni sono abbastanza complesse, soprattutto non è possibile prevedere incidenti, quindi si possono prevedere situazioni di evoluzione dello stato del traffico in funzione del numero di veicoli che sono presenti in un determinato contesto stradale. Queste cose sono già reali o ci saranno fra poco? Le previsioni. Ma questione di mesi sulle arterie, diciamo così, di maggiore percorrenza. Quindi noi le abbiamo già, le stiamo già facendo sul raccordo anulare, ma non sono sulle tangenziali di Milano, ma non sono ancora, diciamo così, diffuse. Poi saranno, come dire, questi saranno dei servizi a pagamento, ovviamente, come il servizio di personalizzazione. Quindi si andrà sempre di più verso sistemi di previsione di traffico e personalizzazione dell'informazione. Quindi, se capisco, visto che alcuni, ad esempio, dicono che ormai i navigatori satellitari stand-alone hanno non le ore ma i minuti contati, perché comunque sono una cosa che si sta trasferendo sullo smartphone, anche i software di navigazione tenderanno a diventare sempre più gratuiti o comunque si abbasseranno di prezzo, e questo sistema complicato del mondo della navigazione si sposterà su servizi di questo genere, previsioni di traffico, ma non solo su questo, perché il mondo del servizio di traffico cartografia è in evoluzione rapidissima, e ci sono, come dire, dei meccanismi di concentrazione che vedono l'associazione di produttori di hardware come TomTom o come Nokia, che si sono hanno fatto acquisizioni di produttori di sistemi cartografici, quindi c'è stato un matrimonio, un consolidamento tra questi. Lo ricordiamo, allora, Nokia ha acquistato qualche anno fa Navtech e TomTom ha acquistato Teleatlas. Teleatlas è stato inglobato all'interno di TomTom, quindi di fatto questo brand, questo marchio non esiste più, mentre invece Navtech continua a operare come marchio autonomo rispetto a Nokia. Ad esempio Nokia è un altro nome importante in questo mondo, perché adesso anche grazie all'accordo con Microsoft integrerà questi sistemi di navigazione sugli smartphone. E volevo farle sentire un'intervista che è molto breve, che io ho realizzato pochi giorni fa, a proposito di quello che dicevamo poco fa, cioè che questo mondo si sta sempre più spostando sullo smartphone, che diventerà una sorta di telecomando intelligente anche in automobile. C'è una nuova tecnologia, un nuovo standard che si chiama Mirror Link, che è stato sviluppato in principio dal centro ricerche di Nokia assieme ai produttori di automobili tedeschi. È una tecnologia che oggi comincia a entrare in automobile. La prima automobile che utilizza questa tecnologia è la Toyota IQ. Ki Chang di Nokia, che fa parte dell'unità che si occupa di mobilità e servizi di localizzazione all'interno di Nokia a Berlino, ci ha spiegato di che cosa si tratta. E dice: Mirror Link è un nuovo modo per connettere il vostro smartphone per utilizzare servizi come la navigazione o per ascoltare la musica. Naturalmente ci saranno molte opportunità per creare nuove applicazioni da utilizzare all'interno dell'auto. Oggi ci sono 40 marchi in questo consorzio che vanno dal produttore di auto, sistemi di bordo e quelli di telefonini. Sostanzialmente questa tecnologia prevede che tu entri in automobile con leghi il tuo smartphone, e ci saranno tantissimi produttori che proporranno questa tecnologia all'interno dei propri smartphone, lo colleghi e piloti tutto quello che c'è a disposizione sul tuo smartphone dalla console dell'automobile. Quindi l'intelligenza un po' si sposta sul telefonino che abbiamo sempre con noi. Ci risentiamo tra qualche minuto. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, il nostro numero verde per chiamarci in diretta è 824 0024. Vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile attraverso il sistema podcast di Radio 24. Trovate tutte le informazioni online su www.radio24.it, nella pagina naturalmente dedicata al podcast. Se avete un software per gestire il podcast, come ad esempio iTunes, ma non è l'unico, ce ne sono tanti altri, avete la possibilità di scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione in maniera automatica, senza tornare sempre sul nostro sito internet. Stiamo parlando di mobilità intelligente, potremmo chiamarla così, partendo da una serie di sensori che sono disponibili oramai in gran parte in buona parte delle strade attraverso vari sistemi. L'abbiamo sentito e ne abbiamo parlato. Balduini, lo smartphone, lei è d'accordo che diventerà, diciamo, lo strumento principale con cui noi utilizzeremo tutta una serie di servizi a partire dalla navigazione? Quindi il navigatore satellitare del futuro sarà lo smartphone. Magari lo utilizziamo solo come intelligenza e vedremo quello che fa lo smartphone su il monitor del servizio di infotainment dell'automobile, che è un po' quello che stanno facendo molte case automobilistiche, dicevo, a partire dalla Toyota IQ, che è la prima che monta questo servizio Mirror Link, che è stato lanciato da poco. Ma ci sono diversi percorsi che si stanno vedendo. Certo, questo sicuramente sarà uno dei più importanti. Entrando in automobile, il nostro smartphone si collegherà con il sistema di bordo e potrà dare tutte le proprie connessioni al sistema di bordo, in modo tale che sia anche un sistema più sicuro, perché utilizzare lo smartphone guidando è un po' complicato, il tema della sicurezza da questo punto di vista. Quindi i sistemi di bordo saranno degli schermi e sistemi di connessione che attraverso lo smartphone saranno in grado di connettersi a internet e a tutti gli altri servizi. Ma ci sono anche altre strade, per esempio BMW ha scelto di montare un proprio navigatore molto complesso e quindi con già sistemi di informazioni del traffico a livello europeo. Ecco, l'altra frontiera è che le informazioni del traffico saranno sempre di più transfrontaliere, cioè non si acquisteranno più informazioni soltanto sulla nostra città o sul nostro paese, ma sempre di più i produttori di automobili, ma anche gli operatori a livello internazionale avranno bisogno di informazioni su tutto l'Europa, ad esempio, come già sta avvenendo e come ha fatto BMW promuovendo proprio una gara per l'acquisizione di servizi di informazione sul traffico a livello europeo. Dunque, sto leggendo un po' di SMS, sì. Adesso ad alcuni magari cercheremo di rispondere. Dunque, parlando anche di progetti all'interno del quali voi siete coinvolti, ce n'è uno che si chiama Pegasus, che mette assieme una serie di aziende, di società che si occupano a vario titolo di informazioni intelligenti per la navigazione, per il traffico, eccetera, eccetera. Facciamo un esempio che mi è piaciuto molto, l'ho ascoltato recentemente, di come potrebbero trasformarsi i parcheggi. Non so poi a che costi, però diciamo il risultato finale, mettendo alcuni sensori all'interno del parcheggio, potremmo avere a disposizione, per risparmiare anche carburante, far prima trovare il parcheggio, un servizio, anche quello forse evoluto per la navigazione. Certo, oltre al veicolo connesso anche il parcheggio deve diventare connesso, quindi avere la possibilità, quantomeno inizialmente in alcune zone magari più pregiate, di conoscere lo stato dei parcheggi, quanti di questi possono essere liberi e anche per le amministrazioni se sono occupati da chi ne ha diritto, avendo la possibilità di connettere il veicolo con dei sistemi a terra o di prossimità che riconoscono le caratteristiche, diciamo così, del veicolo dal punto di vista delle autorizzazioni, e si possono proteggere in questo modo dei parcheggi che, come vediamo, spesso sono impropriamente occupati, come quelli per i portatori di handicap e soprattutto come quelli per le piazzole di carico e scarico merci negli ambiti dei centri storici, che sono una piaga per le città. Il problema delle merci, della distribuzione delle merci in ambito urbano, è uno dei problemi più scottanti in questo momento, sia per la congestione che per l'inquinamento. Allora, c'è una cosa interessante, perché all'interno di questo il discorso che stiamo facendo c'è anche quello della gestione delle flotte, cosa che io pensavo stesse cominciando a decollare in questi anni, ma lei mi diceva poco fa esiste da 10 anni, forse più, addirittura forse più, da quando c'è il GPS. Sistemi... Ma sono diffusi questi sistemi? Sì, sono molto diffusi, ma basta guardare i taxi, cioè i taxi hanno tutti i sistemi, quasi tutti, connessi a delle centrali, taxi, con un sistema GPS. Questa è una flotta, ma gli operatori, gli autotrasportatori, le flotte sono tutte gestite, le flotte aziendali, molte di queste sono gestite da sistemi di localizzazione, con sistemi personalizzati, diciamo così, personalizzati nel senso che sono aderenti alle caratteristiche dell'azienda, al business che uno fa, e che sono utilizzati proprio per controllare, gestire, monitorare e migliorare la gestione del sistema delle flotte, compreso il consumo di carburante, ad esempio. Sentiamo Renato da Rimini. Buongiorno Renato. Sì. L'ascoltiamo Renato. Ah sì, siccome ho sentito prima che si parlava di questo apparecchio da applicare sulle auto che registra anche gli incidenti, crash come li chiamava il suo ospite, la mia domanda era questa: di fronte per esempio a un urto da dietro, facciamo un esempio, il tamponamento, sì, relativamente lieve perché magari la direzione di marcia è la stessa e quindi c'è solo una spinta in avanti rispetto a quello che la marcia di quello che precede, no? Quindi una spinta davanti, sì. Questo magari è sottosterzo per immettersi in un'altra strada e quindi viene spostato senza che l'urto sia particolarmente violento. In questo caso, per esempio, l'apparecchio registra questo urto o sotto una certa soglia, non registra nulla? Buona la domanda, grazie Renato, buon ascolto. registra tutto, può essere tarata la sensibilità del sistema, e poi si tratta, il problema è quello di filtrare quelli che sono i falsi incidenti da quelli che sono effettivamente degli incidenti veri. Questo, e qui ci sta l'esperienza di chi gestisce flotte di ampie dimensioni e ha una banca dati notevole, però si può registrare tutto e tarare il sistema di bordo in modo da poter registrare qualsiasi. Senta, tornando al discorso che stiamo facendo sugli aggiornamenti e delle informazioni sul traffico, quanto frequenti sono queste informazioni? Perché la frequenza d'aggiornamento è importante. Beh, noi aggiorniamo con una frequenza ogni 3 minuti il dato delle informazioni real time che forniamo a InfoBlu. Quindi è abbastanza, insomma, buona. Sì, è abbastanza buona, ogni 3 minuti vengono aggiornati. Quindi... Per capire che su un tratto autostradale c'è una coda, sì, quanti sensori sono necessari? 2, 3, 4, 10, 20? Almeno 5 in un determinato arco di tempo, e dipende anche dalla frequenza di trasmissione dei dati. Noi sui tratti, diciamo così, dove forniamo informazioni sul traffico, acceleriamo la frequenza di trasmissione a 30 secondi, quindi il veicolo ogni 30 secondi trasmette la sua posizione. Sotto un certo numero di veicoli su un tratto stradale, come potrà vedere dal nostro nei siti, la colorazione è grigia, vuol dire che in quel tratto non sono sufficienti i veicoli per poter definire la situazione del traffico. Se ci sono 2 veicoli si possono essere fermati all'autogrill a farsi un caffè, quindi non è sufficiente. Non è coda. Non è coda. Sì, sì. Sentiamo Andrea che ci telefona da Asti. Vi ricordo il nostro numero verde, che è 800 24 00 24. Andrea, benvenuto. Grazie, buonasera Enrico, e complimenti per la trasmissione. Sono in viaggio, quindi mi spiace se sentite i rumori strani della pioggia, eccetera, eccetera. Sto andando in Svizzera. Ah, perfetto. No, io volevo solo fare una considerazione molto veloce su quelle tecnologie di cui stavate parlando prima, lei e il suo ospite, per quanto riguarda le informazioni del traffico. Allora, per quanto riguarda il mio navigatore, ha una funzione, al contrario di quanto appunto dicevate voi, che sono tecnologie tutte a pagamento, tutte eccetera, eccetera. Il mio navigatore ha una funzione che si chiama TMC, in inglese sarà TMC, che funziona in questa maniera qua. Nel cavo, nel jack di ricarica, è insita un'antenna che riceve il segnale FM della radio, tipo Radio Rai, eccetera, eccetera, e riceve in tempo reale appunto i segnali relativi ad esempio ai possibili incidenti, alle code e queste cose qua. In base a questo il navigatore si comporta di conseguenza e mi suggerisce dei servizi alternativi, cioè delle strade alternative, dei percorsi per evitare gli ostacoli, gli eventuali ostacoli, quindi incidenti o lavori in corso, eccetera, eccetera. Sì, sì. E questo è un'ottima tecnologia, ma assolutamente non pago nulla. Solo per farvi presente di che navigatore si tratta, è il Navigon. E tra l'altro un navigatore da 60-70 euro, quindi sì. Questo solo per, appunto, per dire che ci sono anche dei servizi gratuiti per i quali, se ci si ingegna un attimino senza andare a spendere delle cifre eccezionali, si può, diciamo, avere vizi notevoli. Andrea, posso farti una domanda? Ti do del tu. Posso, certo, farti una domanda? Arrivo, tu viaggi molto? Se sì, ritieni che le informazioni che il navigatore ti restituisce, anche come percorsi alternativi, siano affidabili oppure a volte poco? Guarda, ovviamente a volte, ti dico la verità, mi porta in strade totalmente sconosciute, ma probabilmente quello lì deve essere un problema di mappa. Per quanto riguarda invece il traffico, questo segnale qua, questo servizio qua che ti dicevo prima, è molto efficiente e soprattutto funziona in tempo reale. Io ti dico, viaggio molto perché, essendo di Asti, lavoro a Milano, poi vabbè, in settimana io vivo a Milano, però viaggio spesso, quindi sono sempre in viaggio e utilizzo molto spesso il navigatore. E quindi ti dico, questo servizio qua del traffico è molto efficiente. Per altre cose purtroppo non saprei dirti, ma questo perfetto. Qua lo consiglio anche ad altri ascoltatori. Sì. grazie molto Andrea della testimonianza. In effetti Octo Telematics, e poi con l'accordo che avete con InfoBlu, tutte queste informazioni finiscono anche nei servizi TMC. Lo dico brevemente, TMC è una tecnologia che sfrutta come emissione del segnale l'FM di alcune radio italiane, che però poi sul navigatore uno non se ne accorge. Ma il TMC è una modalità di trasmissione, consente di visualizzare su un navigatore o su una radio delle, diciamo così, delle stringhe di dati che consentono appunto di avere l'informazione. Però bisogna fare attenzione. Il TMC dà informazioni sugli eventi di traffico. Dobbiamo distinguere tra gli eventi di traffico e i flussi. L'evento di traffico è: c'è un cantiere, c'è un incidente in una determinata località, ma non fornisce dati sulle velocità e sui tempi di percorrenza, che sono altre tipologie di informazioni, perché queste informazioni non possono essere, come dire, non sono in questo momento rappresentate sul sistema DMC. Poi, questo tipo di informazione è un'informazione che c'è sui tratti autostradali, perché le società autostradali gestori hanno l'obbligo di dare di legge. Raccogliere e fornire gratuitamente queste informazioni. Quindi il nostro signore ce l'ha gratuitamente, ma in realtà lui lo paga col pedaggio. Per tornare al discorso che nulla è gratis, lo paga in un altro modo. Quindi queste informazioni sono, però c'è un obbligo dei gestori a fornire queste informazioni. Fornisce anche, c'è un ottimo servizio a livello nazionale, il CIS, che fornisce questo tipo di informazioni. Poi il sistema TMC è una codifica che funziona soltanto su una rete stradale, su un sottoinsieme della rete stradale. Fino a poco tempo fa era abbastanza ridotto, adesso è stato esteso perché c'è stato un lavoro da parte del Ministero di completamento del sistema, che è un meccanismo di codifica sostanzialmente. Bisogna riprendere la cartografia, ridisegnare i punti uno per uno, attribuire a questi punti un codice univoco, e attraverso questo codice univoco tutto il sistema fa riferimento ad un punto unico ed è in grado di trasmettere rispetto a quella cosa. Però è limitato ad un sottoinsieme della rete stradale, è limitato agli eventi di traffico, non ai flussi, quindi alle velocità, che stiamo parlando noi di un'altra cosa, non solo. Sì, mi è chiaro. Le faccio dire una cosa interessante che fa parte delle ricerche, degli studi che state facendo all'interno di questo progetto Pegasus, di cui Octo Telematics è capofila, perché un ascoltatore fa riferimento a un allarme che è stato fatto anche l'autorità garante per le comunicazioni ha fatto questo accenno a questo allarme, cioè del collasso della rete telefonica. Effettivamente in alcuni momenti e in alcune situazioni, che ne so, stadio pieno di persone, non si riesce a telefonare, oppure emergenze. Immagino che ad esempio ieri abbiamo avuto serie di difficoltà a connetterci con Genova quando è successa, quando c'è stata l'alluvione. Allora, visto che lei diceva i sensori che sono a bordo delle automobili, gli smartphone, trasmettono attraverso la rete GSM, cosa si sta facendo per cercare di ridurre i problemi in caso di caos, e quindi per avere comunque un'informazione sul traffico? Beh, noi abbiamo analizzato questo problema all'interno di questo progetto Pegasus, che è un progetto finanziato dal Ministero dell'Industria, Industria 2015, e che vede la partecipazione, oltre che di numerose imprese, anche di enti di ricerca qualificati ed università. Quindi con l'Università di Bologna, col CNR di Bologna in particolare, abbiamo analizzato e simulato tutte le problematiche relative alla numerosità delle connessioni, ovvero sia se tutti i veicoli fossero connessi e trasmettessero contemporaneamente, ci sarebbe o una caduta della trasmissione voce o comunque una caduta della qualità della trasmissione dati, dipende a chi si dà la priorità. Adesso la priorità è su voce rispetto a dati, quindi abbiamo analizzato queste problematiche sotto due profili: che cosa succede alla rete attuale e quindi quali tipi di investimenti sono necessari, e che cosa succede se tutti sono informati. Perché se tutti abbiamo l'informazione... Ah, questo è importante, sì. Che cosa succede se tutti sono informati e quindi... Tutti fanno il percorso alternativo e la quindi coda si forma lì. C'è un problema nella definizione dei percorsi alternativi, e da questo punto di vista forse esiste la necessità di trovare, qui può ritornare un ruolo anche di un gestore pubblico, diciamo così, che solo questo può in un qualche modo cioè ci saranno reindirizzare rispetto ad una redistribuzione dei flussi sul questo è importante, cioè mi sembra di capire che in futuro bisognerà gestire anche i percorsi alternativi, cioè magari dirottare alcune macchine da una parte ad altre da un'altra parte. Poi l'altra strada è quella di connettere i veicoli con sistemi a corto raggio e quindi non attraverso sistemi GSM, di modo che i veicoli possano trasmettersi i dati tra di loro quando sono vicini. Quando sono vicini, e soltanto il veicolo madre, diciamo così, trasmette poi sulla rete GSM. Sì, soltanto alcuni veicoli. Soltanto alcuni per ridurre il carico sulle celle e quindi ridurre la possibilità di default del sistema. Molto interessante. Le 16:45 minuti, ci risentiamo tra un minuto. 2024. Le 16:47 minuti, stiamo parlando di una marea di informazioni che grazie ai sensori che oramai sono diffusissimi, l'abbiamo citato più volte, anche il nostro smartphone è fonte ospita un sacco di sensori. Dicevo, queste informazioni sono tantissime e anche, Balduini, la gestione di queste informazioni sarà complicata perché i dati stanno aumentando moltissimo. È complicata, ma questo, diciamo, con le tecnologie attuali è gestibile ed è delicata perché c'è sempre il tema della privacy, che è un tema. Adesso sulla privacy sentiamo, allora la interrompo, ma giusto perché abbiamo una telefonata proprio su questo. Andrea che ci telefona da Firenze. Buon pomeriggio, Andrea. Sì, buon pomeriggio a voi. Dunque, io sono un dirigente di una delle maggiori aziende di noleggio a lungo termine e il tema della privacy per quanto riguarda, diciamo, un uso più estensivo delle apparecchiature a bordo delle flotte aziendali rappresenta un ostacolo ancora non risolto che limita di molto, diciamo, l'implementazione di questo tipo di tecnologia a bordo dei veicoli delle grandi flotte aziendali. Volevo appunto capire che cosa si può fare, che passi avanti la tecnologia può portare in questo senso. Quindi sulle flotte aziendali attualmente voi non utilizzate sistemi di questo tipo? Ma io ho un punto di vista diverso rispetto a quello del suo ospite, perché sì, su alcune flotte di operatori particolari, quali per esempio i Corrieri Espresso, tanto per fare un esempio, questo tipo di tecnologie è diffuso, ma la stragrande maggioranza delle aziende che hanno flotte aziendali consistenti non hanno ancora aderito in modo pieno a questo tipo di tecnologia, perché rimane da risolvere il problema della gestione dei dati in termini di privacy, quindi la segnalazione costante degli spostamenti del veicolo guidato da un dipendente dell'azienda rappresenta oggi un sistema che in qualche modo va in conflitto, ecco, con le norme che impediscono il controllo a distanza del lavoro. Sì. Andrea, la ringrazio perché il tema è molto interessante. Balduini. Beh, insomma, ci sono diversi piani. Uno è quello sindacale, che è quello un po'. Ci sono delle regole ovviamente che tutelano il lavoratore, per cui non è possibile controllare a distanza un dipendente né con telecamere o con altri sistemi. E questo sicuramente nell'ambito della gestione delle flotte può essere un problema. Dal punto di vista del traffico, a meno che ne sia informato e abbia accettato. Però questo tema diventerà un tema, c'è anche un problema economico sottostante sull'uso di questi veicoli e quindi immagino che il problema sia più elevato quando si tratta di veicoli ad uso misto, perché se uno ha un furgone lo usa per lavoro. Quindi prima di tutto ci deve essere un'accettazione a monte di questo dato, aveva concordato con le organizzazioni sindacali, però ormai grandi flotte, anche noi facciamo gestione flotte, Poste, Enel e quindi altri piccoli e grandi gestori di flotte, per cui questo problema c'è, ma si può superare attraverso accordi sindacali e accordi personali. Per quanto riguarda invece il sistema assicurativo, noi abbiamo delle procedure molto strette e una certificazione ad hoc rispetto al tema della privacy, perché da questo punto di vista c'è una delicatezza, quindi i dati devono essere, cioè la certezza che devono essere assolutamente anonimizzati e non si possa risalire al proprietario del veicolo. Mm-hmm. E questo è possibile sia attraverso tecnologie e procedure che garantiscano. Dunque, so che ci sono soluzioni sul mercato, però non so se anche la vostra lo prevede, che possono essere messe in privacy mode, diciamo così, cioè quando io vado a fare gli affari miei, perché magari ho un veicolo per uso misto e quindi vado al bar, vado in un altro posto, posso schiacciare un bottone, in quel momento non vengono segnalati gli spostamenti. Sì, questo è il caso proprio tipico della gestione delle flotte aziendali con uso misto. Però nel nostro caso, siccome la finalità è assicurativa, sistema deve essere, anzi ha addirittura dei meccanismi anti-manomissione, perché uno potrebbe anche, come dire, cercare di frodare l'assicurazione facendo registrare chilometri inferiori a quelli che ha percorso. È chiarissimo, molto chiaro. Dunque abbiamo 3 minuti, sì. E allora li vorrei sfruttare per dire una cosa importante, perché l'abbiamo citata e accennata, la e-call, che sta per e-call, cioè che sta per electronic call, chiamata elettronica, chiamata d'emergenza. Allora è una cosa che dal 2015, se non sbaglio, sarà obbligatoria su tutte le automobili vendute in Europa, di nuova immatricolazione, insomma, quindi poi ci vorrà molto tempo per fare tutto il parco auto. Che cos'è? È un sistema che consente di localizzare il veicolo in caso di incidente, no? e in caso di chiamata, cioè il guidatore non solo può essere localizzato nel caso in cui avvenga un incidente che viene rilevato dai sistemi di centrale sulla base dei sensori, o per esempio adesso collegato agli airbag, con lo scoppio degli airbag, ma ha anche un pulsante che può premere e attraverso questo mettersi in contatto con un canale voce con una centrale operativa. Quindi la direttiva europea prevede sia l'istituzione di centrali operative che regolano, che gestiscono questo sistema, sia l'installazione a bordo da parte delle case automobilistiche di un piccolo dispositivo, anche questo composto da un sistema di trasmissione voce e dati, perché è un sistema misto, e da un GPS per la localizzazione. Che lo dovremmo chiamare Galileo poi. Sì, anche Galileo, esatto, il sistema Galileo. Sì. E poi può avere anche un accelerometro, oppure può essere collegato con i dispositivi di bordo per la rilevazione dell'incidente. Diciamo che questi sistemi di fatto esistono già, li abbiamo raccontati oggi, però saranno obbligatori. Diventeranno obbligatori su tutti i nuovi veicoli e garantiranno una maggiore sicurezza, perché possono garantire interventi più tempestivi, velocità in caso di incidenti di una certa gravità, e di appunto connettersi per comprenderne la Dunque gravità. non abbiamo accennato al grande tema del risparmio di carburante, perché una informazione sul traffico, una gestione quindi della viabilità con tutte queste informazioni ci permette anche di risparmiare carburante. Se ad esempio, come potrà essere tra qualche mese, ci saranno dei sistemi che ci segnalano il parcheggio e quindi io vado a botta sicura ad occupare quel parcheggio, posso risparmiare oltre che tempo anche carburante, ne abbiamo molto bisogno. Io ringrazio Roberto Balduini per essere stato con noi. Questi temi mi piacciono molto, io ritengo che siano molto interessanti, quindi speriamo di avervi offerto una panoramica che vi possa poi servire anche per approfondimenti in rete. Insomma, ci sono un sacco di informazioni, avremmo potuto parlare per 8 ore. Sì, forse sì. Esatto. Grazie. Ma poi si sarebbero stancati. Sì, beh, ringrazio gli ascoltatori. Diciamo, Roberto Balduini, che è responsabile del servizio traffico di Octo Telematics. Lei è anche responsabile dei paesi emergenti, ma non l'ho citato perché in questo caso... Mercati emergenti. Ringrazio allora Balduini per essere stato con noi. Vi ricordo che questa puntata sarà disponibile tra poco all'interno del sistema podcast di Radio 24, quindi vi invito a scaricare il file MP3 della nostra trasmissione, di diffonderlo, anche di partecipare alla discussione sulla nostra pagina Facebook, fare anche I like, si dice così. Ci trovate molto facilmente scrivendo e cercando 2024 appunto su Facebook. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it, quindi 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, appuntamento alla prossima settimana. Vi proporremo una intervista molto interessante a l'inventore del microprocessore, che è italiano, si chiama Faggin. Vi aspettiamo sabato prossimo su Radio 24. 2024. 31 seconds and we're on for auto sequence start.